ringraziare, questo è... siamo tornati assieme. C'è chi diceva che Devan avessero arrestato, invece è stato rilasciato da poco. È ancora sotto psicofarmaci, quindi non rivolgetevi la parola. Morde, comunque, morde. Siamo qui, di nuovo. Morde anche lui. La carica che ci contraddistingueva quando eravamo giovani e non avevamo piedi sul pube. Gli togliete il microfono? È stato un errore dando il microfono, ma questo fa parte dell'evoluzione. C'è. Potrò continuare a dire puttanate fatto con lui. Vabbè. Adesso qualcuno sa che pezzo c'è? Qualcuno? Attenzione, poliziese, abbiamo avuto un problema. È stato vietato dal regime. Sì. Stiamo cercando di smettere con i poliziesi. Sì, è un po' un nostro problema. No, anche quello è tutta una serie di cose che sono state proibite. Abbiamo fatto i grandi classici come Pooh, però non facciamo tutte le puttanate che facevamo ai tempi. C'è un limite a tutto. Esattamente. Ci siamo impegnati, santo Dio. La gente si evolve, lui prende il microfono e tutto va un po' in merda.